fiocco di neve. C'era una volta, in una piccola città chiamata Doncaster, un luogo allegro pieno di gente affiatata e amichevole, la famiglia Schneiders, una famiglia di 3 persone amorevoli e divertenti, Kurt, Olivia e Rob. Questo era il loro momento preferito dell'anno, l'inverno. Gli inverni a Doncaster erano i più belli. Le strade coperte da un letto di neve bianca scintillante e piene di bambini che giocano in giro facendo palle di neve e pupazzi di neve. Un giorno, mentre la neve iniziava a cadere, i bambini corsero a giocare. Kurt era fuori dal vialetto a spalare la neve e osservava Rob che giocava con i bambini del quartiere. «Tesoro, il tè è pronto!» «Arrivo, cara!» Erano una famiglia felice e adoravano il loro figlio Rob. Tuttavia, gli Schneider desideravano intensamente che le fate gli concedessero una figlia piccola. «Guarda le bambine che giocano! Quanto sono adorabili! Mi piacerebbe averne una nostra, in modo da poterle spazzolare i capelli e vestirla con gli abiti più belli!» Proprio mentre erano in piedi vicino alla finestra, Kurt vide alcune bambine fare un pupazzo di neve. «Tesoro, ho un'idea! È una giornata così bella! Perché non usciamo e facciamo un pupazzo di neve con Rob?» «È proprio una buona idea! Vado a prendere i tuoi attrezzi dal garage!» «Potremmo fare una bambina di neve! Sarà nostra da amare! E la ameremo molto!» «Sarebbe fantastico!» E così Kurt tirò fuori i suoi strumenti da intaglio. Rob continuò a raccogliere palle di neve, mentre Olivia preparava la cioccolata calda con i mini marshmallow. Cominciarono a modellare la piccola bambola. Prima fecero il corpo, con piccole manine e piedini con piccole dita. «Ecco, papà, facciamo la testa adesso. Questo è molto divertente. Non vedo l'ora che la piccola fiocco di neve sia pronta!» «Fiocco di neve? Dovremmo chiamarla così!» Poi le fecero il mento e un grazioso nasino e 2 bellissimi occhi. Scolpì accuratamente le sue labbra ed eccola lì, tutta pronta. Proprio in quel momento la neve smise di cadere e facendosi spazio fra le nuvole uscì il sole che andò proprio su Fiocco di Neve che all'improvviso fece un piccolo sospiro. Kurt cadde per la sorpresa. Rob urlò forte per l'eccitazione. «Ah, mamma, lei è viva!» «Oh, cielo, che cos'era quello?» Il viso di Rob si illuminò di eccitazione quando i suoi occhi incontrarono quelli della bimba e le sue labbra divennero rosse come lamponi mentre sorrideva. Olivia corse a vedere cosa fosse successo e con sua grande sorpresa Fiocco di Neve si girò verso di lei, lasciandosi cadere tutta la neve di dosso. «Oh, cielo, è un miracolo! Le fate ci hanno davvero benedetti!» E così, felici e contenti, andarono dentro. Fiocco di neve crebbe rapidamente. Ogni giorno diventava più grande e più intelligente. Tutti i bambini della città passavano per giocare con Fiocco di neve. Un giorno, quando l'inverno era finito, Fiocco di neve parlò a sua madre delle fate della terra e del cielo. «Le fate dell'acqua mi stanno aspettando! E mentre il sole splende più luminoso, mi unirò a loro. Per favore, non preoccuparti. Sarai ancora in grado di vedermi lungo il fiume prima che io parta.» «Oh, mio fiocco di neve, cosa stai dicendo? Non ti lascerò andare da nessuna parte.» «Mamma, devo. Vedi, sono la fata del corso dell'acqua. Ma non preoccuparti, tornerò.» «Ma dove andrai?» «Scorrerò lungo il ruscello e riempirò il fiume, dando acqua a tutti in città.» «Ma, tesoro!» «Come ho detto, mamma, non devi preoccuparti, tornerò.» Quindi, la mattina dopo, Fiocco di Neve e Rob andarono con i loro amici a giocare al fiume. Trascorsero la mattina giocando e cantando canzoni sull'erba. Proprio mentre il sole diventava più forte, Fiocco di Neve iniziò a sciogliersi e si sedette sulla riva del fiume. Dopo un po' di tempo si era sciolta e si era trasformata in acqua del fiume. «Ehi, dov'è finita Fiocco di Neve?» «Era proprio qui, vero? Fiocco di Neve! Fiocco di Neve!» I bambini guardarono in giro, ma non la trovarono da nessuna parte. Proprio in quel momento, Rob sentì chiamare il suo nome. «Rob! Rob!» «Sembra Fiocco di Neve!» «L'ho sentita anche io, sembrava venire dal fiume!» corsero al fiume, dove videro una bellissima bambina che galleggiava nell'acqua. Era Fiocco di Neve. Dì alla mamma che tornerò presto. Ora devo andare con le fate dell'acqua. Confuso, Rob si grattò la testa e annuì e corse indietro per dirlo a sua madre. Nel frattempo, Fiocco di Neve scorreva lungo il torrente assieme alle fate dell'acqua. Di giorno visitava i suoi amici sulla riva e portava acqua da bere e da portare a casa. Ecco, signora. Grazie, piccola. Oh, finiscila. Tutta la terra era piena di vita grazie all'acqua portata da lei. Mentre scorreva con il fiume, i fiori cominciarono a sbocciare e l'erba divenne più verde. Gli uccelli volarono in giro cinguettando e cantando le loro canzoni melodiose. Passarono i mesi e l'estate era dietro l'angolo. La terra era piena di calore. I raggi del sole scesero per giocare e anche i bambini giocavano sul fiume. Saltavano dentro e nuotavano con Fiocco di Neve, mentre lei scorreva e li faceva divertire. Rob andava su e giù nell'acqua. È molto divertente. Ora è tempo per me di salire con le fate del cielo. Evaporerò qui e salirò nell'atmosfera. Volerò in aria e scorrerò con il vento. Ma perché devi andare? Non puoi restare qui e giocare con noi? Se non vado, il vento non soffierà e i fiori non saranno in grado di impollinare. Non ci sarà aria fresca per respirare. Non ti preoccupare, tornerò presto. E così, Fiocco di Neve evaporò e salì nel cielo, soffiando tra gli alberi. Andò in giro a soffiare la brezza. Kurt era fuori nel prato a falciare l'erba quando una leggera brezza lo sfiorò. Alzò gli occhi e, con sua sorpresa, vide Fiocco di Neve fluttuare nell'aria. Ciao, papà! Oh, ciao, bambina mia! Olivia, guarda chi c'è qui! Oh, che bello vederti, mia cara! Oh, quanto è divertente volare con il vento! Vado in giro nel cielo con le fate del sole di giorno e di notte soffio tra gli alberi della foresta mentre gli uccelli vanno a dormire. Tornerò presto a casa, mamma e papà. Manca poco ancora prima dell'inverno. Stammi bene, amore! Con un soffio di brezza, Fiocco di Neve volò nel cielo. Alla fine arrivò l'inverno e la neve cominciò a cadere, rivestendo la città di una coltre bianca. Mamma, papà, nevica! Sta nevicando! È tempo che Fiocco di Neve torni a casa! Finalmente! Ho preparato dei biscotti per lei! Si precipitarono nel cortile per salutare la loro piccola figlia e proprio in quel momento, dalla neve, arrivò Fiocco di Neve, che sembrava più alta di prima. Corse dai suoi genitori e li abbracciò forte. Sono felice di essere tornata. Oh, mia piccola Fiocco di Neve, sono così felice che tu sia tornata. Non ci lascerai di nuovo, vero? Oh, Robby, sono la fata dell'acqua e sono stata scelta da Madre Natura, l'angelo della terra, per riempire la terra di acqua durante tutto l'anno. Quindi, col passare del tempo, ogni stagione prenderò la forma dell'acqua nel suo ciclo, trasformandomi in neve, in acqua, che poi dopo diventa vapore acqueo e poi torna sotto forma di neve. Ma non essere triste, sarò con te nelle mie molte forme durante tutto l'anno. Oh, mia piccola, vieni ora, ho fatto quei biscotti che ti piacciono tanto. E così entrarono e si godettero il tè e i biscotti e Fiocco di Neve, la fata dell'acqua, continuò a portare felicità nella vita della gente di Dancaster.